24, i gialli della storia. Le donne nel Reich di Hitler. In molte hanno appoggiato il dittatore, ma alcune hanno fatto molto di più. Come Eva Braun, l'amante che lo ha seguito incondizionatamente fino alla morte. Magda Goebbels, la seguace che per la follia del Terzo Reich ha ucciso i suoi 5 figli. Leni Riefenstahl, la regista che con le sue immagini ha celebrato il regime. Zara Leander, la cantante che ha prestato la sua voce alla propaganda. Anche lei, Marlene Dietrich, avrebbe dovuto servire i nazisti. Ma lei ha detto di no. L'attrice tedesca, la diva dell'Angelo Azzurro, la sofisticata interprete di canzoni divenute celebri in tutto il mondo, dice no al Führer e si trasferisce a Hollywood. Il giorno dopo la prima dell'Angelo Azzurro, scappa dalla Germania, firma un contratto d'esclusiva con la Paramount e chiede di diventare cittadina americana. La sua determinazione insospettirà anche l'FBI, che per anni la controllerà, pensando che possa essere una spia nazista. Hitler tenterà di riportarla in patria, ma Marlene Dietrich resterà con gli americani, seguendo le truppe al fronte e mandando in delirio migliaia di soldati e diventando per loro un'eroina. Oggi a Mix 24 raccontiamo la sua storia con le testimonianze di colleghi e amici del biografo Werner Sudendorf, del cugino Asso Felsing e del giornalista Helmut Karask. Nome Maria Magdalene Sieber, il suo vecchio nome tedesco. Ma la data di nascita è cambiata, 1904. La diva ha colto l'occasione per ringiovanirsi di 3 anni. Un documento segreto dell'FBI. La Dietrich potrebbe essere una spia. Centinaia di pagine di sospetti e di rapporti degli informatori. A uno di questi l'attrice confida di non considerare Hitler un uomo normale, ma riconosce che il dittatore ha un debole per lei. Forse è un sentimento ricambiato. I servizi segreti sono sospettosi. L'FBI tiene d'occhio la comunità dei tedeschi in America. Gli agenti annotano i loro dubbi. Il capitolo conclusivo del dossier su Marlene porta la data del 1967. L'attrice, si legge, non ha mai nutrito simpatie per la Germania nazista. Finalmente è ufficiale. Marlene Dietrich è stata un'avversaria di Hitler. Marlene Dietrich fa addirittura propaganda perché l'America entri in guerra contro la sua vecchia patria, quella Germania che le ha insegnato il rigore e l'amore per l'arte. Marlene Dietrich nasce da una famiglia benestante. Il certificato di nascita riporta il suo nome di battesimo, Maria Magdalene Dietrich, nata il 27 dicembre 1901. Più che dalla madre, direi che Marlene aveva preso dal padre. C'era in lei qualcosa dell'ufficiale prussiano. Ogni tanto si sceglieva dei nomi maschili e in seguito si sarebbe anche vestita da uomo. Senza dubbio Marlene era la figlia di suo padre. La Prima Guerra Mondiale stravolge anche il mondo di Marlene. Il padre, Lois Dietrich, è già morto. Il patrigno, l'ufficiale Eduard von Losch, cadrà al fronte. Marlene si rifugia nei suoi sogni d'infanzia, nella musica. Vuole diventare musicista, violinista. La madre la manda a studiare musica a Weimar, la città di Goethe, lontana dalle agitazioni di quel periodo. Io penso che la sua giovinezza borghese sia solo una stilizzazione successiva. La sua non fu una gioventù così borghese come la raccontò in seguito. Questo vuol dire che l'ingresso nel mondo della rivista, del teatro, dei nightclub fu tutto sommato semplice. Berlino negli anni 20. Una città che cambia all'indomani della guerra. Vita notturna, teatro, le insegne luminose della rivista. La Dietrich abbandona presto il violino. Adesso sfrutta il suo fascino, le sue belle gambe e la sua ambizione. In breve tempo Marlene va in scena tutte le sere. Ma intanto, nei primi anni 20, si progettano i primi segni di un totalitarismo che segnerà il XX secolo. Per le strade della Germania, ora marciano squadre di provocatori. Si fanno chiamare nazionalsocialisti. Il loro capo, invece, si chiama Adolf Hitler. Ha affidato ad un agitatore della Renania il compito di conquistare Berlino. È Josef Goebbels, appassionato di cinema e futuro ministro per la propaganda. Nei bar di Berlino, la Dietrich celebra i suoi successi. Marlene si trasforma. Nuove esperienze e nuove relazioni amorose con uomini e con donne. Nel 1923 Marlene sposa Rudi Sieber, braccio destro di un produttore cinematografico. Il cinema tedesco cerca nuovi volti. Marlene recita in 16 film muti prima di questo storico provino per un film sonoro. Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195 terza. You're the cream in my coffee, you're the salt in my stew. Un successo. Il regista di Hollywood, Josef von Sternberg, è colpito dal fascino insolente di Marlene e le offre una parte da protagonista. Sarà Lola nel film L'Angelo Azzurro, il ruolo della sua vita. L'Angelo Azzurro è un trionfo che consacra Marlene Dietrich come una star. Il film, il primo del cinema tedesco a essere sonoro, viene girato in tedesco e in inglese. Quasi una premonizione per quello che sarà il futuro della giovane artista. Infatti la Dietrich lascia Berlino il giorno dopo la presentazione del film. È pronta per Hollywood, dove firmerà un contratto con la Paramount. Ancora una volta a guidare le sue scelte è solo la carriera. Marlene Dietrich si affaccia nel nuovo mondo quasi timidamente. È la creatura del suo maestro, Josef von Sternberg. Quando era a Hollywood, era il 1932, Marlene diceva: devo tornare in Germania. La gente vuole che reciti in tedesco e vuole vedermi in film tedeschi. Del resto il cinema tedesco all'epoca non era poi così male. Si pensi a Fritz Lang, che ha girato anche in America, Georg Wilhelm Pabst e così via. Nel 1932 il cinema tedesco aveva una rilevanza mondiale. Poi nel 1933 è stato spazzato via tutto. Berlino 1933, la notte dell'ascesa al potere. Le SA hitleriane marciano alla luce delle torce. Si festeggia la vittoria. Adolf Hitler è cancelliere. La sua sarà una Germania diversa, una Germania che Marlene disprezzerà. La Germania non suscita più sentimenti di nostalgia. Invece che in Germania, Marlene andò in Francia. Qui partecipò a un ricevimento dove c'erano anche dei fuoriusciti tedeschi, come ad esempio Richard Tauber, i quali le portarono notizie fresche su quello che stava accadendo in Germania. E questo la convinse definitivamente a non tornare più in Germania. Marlene è tutt'altro che un'attivista politica. Lavora con passione e accanimento nella fabbrica dei sogni di Hollywood. Un mondo edulcorato, isolato, le cui porte sono tenute sotto stretta sorveglianza. 1936. Le produzioni diventano sempre più colossali. Per il film Il giardino di Allah viene ricostruita una tendopoli nel deserto. Per l'attrice è una prova fisica estenuante. Ma Marlene la sopporta bene. Una bellezza impeccabile anche a 40 gradi all'ombra. Nel 1937 si mette in viaggio. Si torna in Europa, vicino a casa. La star di Hollywood a Parigi. Marlene ama la città e la città ama Marlene. E poi quasi in Germania. Marlene Dietrich in Austria. A meno di 50 chilometri, sull'Obersalzberg, c'è la residenza del suo ammiratore segreto. Lui guarda tutti i suoi film anche dopo lo scoppio della guerra. Artisticamente Hitler la ammirava moltissimo. Nessuno è bravo quanto lei, diceva a chi assisteva alle proiezioni private. Per il Führer, l'attrice è vittima di una congiura americana e allora incarica il ministro per la propaganda Goebbels di riportarla in patria a ogni costo. È un obiettivo molto difficile, ma per la propaganda nazista sarebbe un successo clamoroso. Il diario privato del dottor Goebbels, annotazioni manoscritte conservate su microfilm. A proposito dei suoi tentativi di convincere Marlene, scrive: 7 novembre 1937. L'impresario teatrale Hilpert a Parigi per riportare Marlene Dietrich in Germania. Per noi sarebbe un grande successo. 12 novembre 1937. Marlene Dietrich potrà rientrare a Berlino solo fra un anno, ma continua ad essere legata alla Germania. Illusioni. Marlene tiene a bada contatto e diplomazia ai suoi corteggiatori del Reich nazista. A Berlino è rimasta sua madre e non vuole irritare Goebbels. Gli scrive di suo pugno: purtroppo per il momento un incontro non è possibile, causa lunghi impegni contrattuali. Marlene Dietrich. Marlene non ha intenzione di tornare. Sa bene cosa l'aspetta. Marlene Dietrich, hanno cercato più volte di attaccarla, per così dire, al carro della propaganda. Stando all'estero, lei lo ha capito e ovviamente non ha accettato. Marlene era preoccupata non solo per le sorti della Germania, ma anche per le sorti di tutto il genere umano. Nel 1942 l'America è ormai in guerra contro la Germania. Marlene Dietrich vive negli Stati Uniti da oltre 10 anni ed è diventato un punto di riferimento per quelli che hanno lasciato la patria tedesca. Forte e generosa, la diva di Hollywood aiuta i perseguitati e gli esuli del regime nazista mentre recita e canta per le reclute americane al fronte. Una serata alla Hollywood Canteen. Assistenza alle truppe tra luci e glamour. Marlene è lì, con i giovani soldati che stanno per partire in guerra. Un affettuoso abbraccio davanti alle cineprese del cinegiornale. Dietro la posa da star, la sincerità della donna. Ogni grande attrice cammina sempre su un filo, consapevole che tutto potrebbe finire da un momento all'altro. E per avere la conferma della propria popolarità servono anche cose, per esempio, come ballare a Hollywood per i soldati in licenza o per quelli in partenza per il fronte. Questo sicuramente serve anche allo stesso tempo a rendere pubblica la propria posizione, a svolgere un servizio patriottico e inoltre anche a fare il proprio dovere. Il passo successivo è l'arruolamento al seguito delle truppe. Nel 1944 un aereo da trasporto la conduce nel teatro dei combattimenti. Il piano di volo riporta alla destinazione, Africa del Nord. Lontana anni luce da Hollywood, Algeri è il nuovo luogo di lavoro di Marlene Dietrich. Lei trova un nuovo pubblico e i soldati amano la nuova Marlene e soprattutto le sue canzoni. Outside the barracks, by the corner light. Canta l'inno dei soldati tedeschi, Lili Marlene, in inglese. Una melodia che tocca i cuori su entrambi i fronti. Le coste italiane. Gli alleati sono sbarcati. Alla fine di maggio del 44, Marlene è al seguito delle truppe americane. Si trova al fronte, nella zona di combattimenti, spesso a ridosso delle linee tedesche. Marlene visita infermerie ed ospedali. Incoraggia i feriti. Estate 1944. Marlene Dietrich è appena guarita da una grave polmonite contratta al fronte. La sua arma contro Hitler è il microfono. Guerra all'americana con il giusto accompagnamento musicale. Per tenere alto il morale della truppa, una canzone western di Marlene. E buona fortuna. Grazie. See what the boys in the back room will have and tell them I'm having the same. Ma nell'avanzata verso Roma dovranno morire ancora migliaia di soldati alleati e il vero grande scontro deve ancora venire. Dal palco la Dietrich legge un comunicato che riporta alla cruenta realtà di questa orribile guerra. Un'altra invasione alleata è cominciata, in Normandia. La più grande operazione di sbarco della storia dell'uomo. Giovani che lasciano la pace della propria casa e vanno in guerra per liberare l'Europa da Hitler. esorcizzando la paura con scherzi e battute. Il 6 giugno del 44, il D-Day, l'assalto decisivo contro la Germania di Hitler. Soltanto nel primo giorno cadono 2.500 soldati alleati e quello che in gergo militare si definisce perdite accettabili. Intanto a Washington, negli archivi dei servizi segreti militari, viene ritrovato un documento speciale, nome in codice Mossad Project, protagonista del progetto, Marlene Dietrich. Obiettivo della missione segreta, demoralizzare le truppe tedesche. Canzoni sentimentali con testi in tedesco per suscitare nelle truppe hitleriane un senso di stanchezza verso la guerra. Incisioni destinate ad una radio clandestina, musica che deve raggiungere le orecchie dei soldati tedeschi. In Germania, intanto, la Gestapo mette sotto torchio i parenti di Marlene. Mi interrogarono un paio di volte, perché ero parente della madre di Marlene. Ogni volta che Marlene faceva qualcosa, andavano a prendere sua madre. Ma io non è che sapessi molto. La paura. Anche Marlene Dietrich deve farci i conti. I bombardieri alleati che ogni giorno si levano in volo verso la Germania arrivano anche a Berlino. Arrivano anche sulla casa della sua infanzia. Agosto 1944. Parigi è libera. Marlene rivede lo scrittore Ernst Hemingway. Lui la chiama affettuosamente Mein Kraut, il mio cavolo. Lei, il papa della mia chiesa personale. Inaugurazione della Stage Door Canteen, un club per i soldati alleati. Autunno 1944. Suona Tommy Dorsey e il pubblico si scatena. A Parigi l'inno dei soldati di Marlene, la canzone della morte allegra, assume una vivacità particolare. Per i soldati è un idolo. La prova vivente che la guerra finirà. L'incubo in camicia bruna, spazzato via a suon di canzoni. Lei riusciva a mettere in scena la vita solo nei rapporti con gli altri. C'era solo caldo o freddo, vicinanza o lontananza. E se vogliamo, il suo rapporto con la Germania è stato un po' come una storia d'amore, con l'iniziale idillio dell'angelo azzurro, in seguito con una lunga separazione ed infine con un ritorno a casa che non si è mai compiuto. Il ritorno a casa della Dietrich a bordo di una jeep americana e il ritorno in Germania di un'estranea. Le persone che incontra sono annientate dalla guerra. Il suo ritorno è amaro e deludente, ma la diva deve affrontare qualcosa di ancora peggiore. Il campo di sterminio di Bergen-Belsen. Marlene visita questo lager dell'orrore nella speranza di ritrovare sua sorella. Come internata, pensa lei. In realtà, la sorella gestiva una mensa della Wehrmacht nelle immediate vicinanze del lager. Alla fine risulterà aver collaborato con i nazisti. Marlene non glielo perdonerà mai. E non dimenticherà mai quanto ha visto quel giorno a Bergen-Belsen. La accompagnai anche nel campo degli orrori, con i cadaveri allineati, e le dissi: guardi, guardi lì. Venivano in tanti a visitare il campo, ma io non portavo mai nessuno lì, dove c'erano quegli scheletri ambulanti e tutti quei cadaveri allineati. Lei non aprì bocca, ma era evidente che la cosa la scosse profondamente. Hitler è morto. L'immagine che ornava così tante pareti tedesche adesso diventa un souvenir di cui sbarazzarsi in fretta. È iniziato il difficile dopoguerra della Germania. Se potessi esprimere un desiderio, canta Marlene che cerca la madre fra le rovine della città. Wilhelmina von Losch è sopravvissuta. Ha 69 anni, quell'abbraccio dopo 13 anni è come il sospirato commiato. Di lì a qualche mese, durante il gelido inverno del 45, la madre morirà. Marlene go home, Marlene vattene. L'ombra di Hitler continua ad offuscare quella che è stata la sua nemica. In fondo quella gente ignorava completamente, o comunque intuiva poco, che opporsi a Hitler in ogni modo possibile era sentito come un dovere. Mi amavano e mi odiavano, contemporaneamente. C'erano anche persone molto gentili. C'era Willy Brandt, allora. Io sono andata da lui, mi sono trattenuta a parlare con lui. Poi c'era anche una signora veramente in gamba, una berlinese, che mi ha detto: «Allora, vogliamo fare la pace?» Ma ovviamente c'erano tanti altri che non me la volevano perdonare. Ma anche quello era un rapporto d'amore, certo. Quando uno degli amanti se ne va, l'altro un po' si arrabbia, no? Niente di nuovo, quindi. Le chiesi se avesse ritrovato qualcosa della Germania che ricordava e lei disse: «Qui è stato distrutto molto più che le case». Devo dire, nutrivo un'ammirazione smodata per lei. Era ancora una donna bella e attraente. E solo quando il mio sguardo è sceso sulle sue mani, mi sono reso conto che la pelle non era più tesa, che erano le mani di una persona anziana. Una diva che non vuole invecchiare, ma che vive delle sue vecchie canzoni e della sua vecchia fama. La Dietrich soffre per l'astio che tanti tedeschi nutrono verso di lei. I suoi detrattori la definiscono una vecchia signora arrogante. Non vuole più vivere nella sua città, a Berlino. Nell'autunno del 1975, l'ultimo sipario. Si accorgeva che la bellezza, la sua bellezza esteriore, stava sfiorendo. E così decise: «Non voglio più vedere nessuno». Per me fu un grandissimo dolore. Marlene Dietrich si ritira nella solitudine. Diventa prigioniera della propria immagine. Per 15 anni vive da reclusa nel suo appartamento in Rue Montaigne, a Parigi. Marlene voleva conservare l'immagine di se stessa che si era creata. E, come dire, questo significava confinare il proprio regno nella sua camera da letto. La pianta del suo appartamento, disegnata personalmente da lei, al centro di questo piccolo mondo, il letto. Intorno al letto, disposti in ordine maniacale, bottiglie, libri, pasticche, tutto a portata di mano. Davanti il televisore, lo spioncino verso l'esterno. E poi il telefono, con cui mantiene i contatti. Se anche non si mostra più in pubblico, attraverso la televisione Marlene continua ad osservare ciò che accade nel mondo. Riceve anche le trasmissioni tedesche. Solo la morte riporta Marlene a Berlino. Non ha mai voluto vivere in Germania, ma vuole riposarvi per sempre. Marlene e i tedeschi. Un amore difficile, ma pur sempre un amore. Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione.